so che ci pensi anche tu, ora che tutto sembra distante dalla parte migliore di noi. Sono pochi o son tanti, non so, solo che non abbiamo